2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Benvenuti, una nuova puntata. E registriamo questa settimana l'ottimo lavoro fatto da Apple e da Google, che hanno presentato una serie di novità per migliorare e rendere più efficienti ed efficaci le tecnologie di base su cui verranno realizzate le applicazioni per fare l'ormai famoso contact tracing, ovvero il tracciamento dei contatti per essere avvisati nel caso uno sia stato vicino ad una persona che dovesse poi risultare positiva. Allora, ricapitoliamo che cosa è successo nelle ultime settimane. Apple e Google, che controllano, ricordiamo, i sistemi operativi del 90, quasi 99% degli smartphone in Occidente, quindi sono decisivi in questo momento, hanno deciso di mettere a disposizione degli sviluppatori tecnologie per rendere interoperabili i segnali Bluetooth Low Energy di iOS e di Android. Allora, non faranno un'applicazione, ma saranno i governi nazionali a svilupparle. Sapete che in Italia è stata scelta Immuni di Bending Spoons, di entrambe le cose, cioè di Bending Spoons e anche di quello che hanno fatto Apple e Google. Abbiamo parlato ampiamente con un approfondimento la scorsa settimana. Nelle ultime ore le novità presentate da Apple e Google riguardano alcuni aspetti tecnici e la privacy. È molto importante. Praticamente con queste novità annunciate è impossibile dall'esterno risalire all'identità di una persona o collegare un messaggio allo smartphone che lo ha inviato. Quindi chiunque critichi e metta dei dubbi alla privacy di questi sistemi o delle applicazioni sviluppate su questo nuovo schema presentato da Apple e Google sta dicendo il falso. Allora, l'unica cosa che faranno queste applicazioni è tenere una lista degli smartphone che si incrociano, che si incontrano, che stanno vicini e che ovviamente hanno la stessa applicazione e potranno essere avvisati se uno di questi risultasse positivo. Ovviamente io parlo di smartphone, dietro agli smartphone ci dovrebbero essere delle persone. Allora, queste app di contact tracing, quindi anche quella italiana, non saranno sicuramente pronte prima della metà di maggio. Quindi avremo tempo per approfondire ulteriormente, per avere magari dettagli su come funzionerà Immuni di Bending Spoons, visto che ci sono molte domande che i tecnici, anche esperti di privacy, hanno fatto al Dipartimento dell'Innovazione, e quindi la ministra Pisano dovrà aggiungere alcune risposte oltre ai dettagli che sono stati pubblicati questa settimana. Non dobbiamo nemmeno affidarci troppo a queste applicazioni, nel senso che se non riusciamo a mettere insieme un programma di test e quindi fare tamponi ad un numero maggiore di persone, queste applicazioni fanno molto poco. Cioè, se non si sa che uno è positivo, è inutile fare il contact tracing. Comunque, sicuramente molto interessanti queste novità che avremo modo di approfondire ulteriormente nelle prossime settimane. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Dunque, iniziamo da Microsoft, che ha mandato in pensione il brand Office 365. Brand super noto, super famoso. Dal 21 aprile esiste solo Microsoft 365. Questo nuovo pacchetto comprende tutte le funzionalità dell'attuale pacchetto Office, con due abbonamenti per l'utenza consumer, il Personal e il Family. Molte sono le novità presentate o che arriveranno nei prossimi mesi, molte sono basate sul cloud di Microsoft o su sistemi di intelligenza artificiale, sono elencati sul sito di Microsoft. Però, nonostante i problemi di sicurezza di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate, nonostante in tutto il mondo governi e aziende abbiano deciso di non usare Zoom, la ormai popolare piattaforma per videoconferenza, ha visto crescere negli ultimi giorni, o meglio nelle ultime tre settimane, il numero di utenti di un altro 50%. Oggi gli utenti di Zoom sono 300 milioni. E a proposito di video online, adesso parliamo di quello in streaming, la pandemia porta nuovi clienti anche a Netflix. Nel primo trimestre il servizio raccoglie altri 15,8 milioni di utenti e arriva a quasi 183 milioni. È nato un nuovo operatore nel mercato dello streaming audio, parliamo di Sonos, che è il produttore dei notissimi diffusori audio che si connettono alla rete Wi-Fi di casa. Ne abbiamo parlato in passato parlando dell'audio multi-room, insomma blasonati Sonos. Allora ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Sonos Radio. Quindi se uno ha queste casse audio, questi diffusori audio, può con l'applicazione sintonizzare una serie di canali su questa radio. Molto interessante quello che ha fatto Facebook in India, mercato enorme, sconfinato. Allora Facebook ha fatto la seconda acquisizione della sua storia per un valore di 5,7 miliardi. La più importante della storia è stata quella di 22 miliardi per acquistare WhatsApp. Allora, Facebook acquisirà il 9,99% di Jio Platforms, speriamo si pronunci così, all'indiana, che si occupa di varie cose, di e-commerce ed è anche uno dei principali operatori telefonici indiani con circa 340 milioni di utenti. A proposito di numeri sconfinati, allora Facebook vuole costruire nuovi servizi su WhatsApp che in India ha 400 milioni di utenti e pensate che è il principale mercato di Facebook, 400 milioni di utenti, è pazzesco, si pensa che possa costruire servizi che comprendono sia l'e-commerce che il pagamento. Si sta pensando ad esempio a piccoli negozi che tramite WhatsApp, uno tramite WhatsApp prenota magari una spesa con la consegna a domicilio e paghi sempre attraverso questa piattaforma, un po' come succede in Cina con WeChat. E a proposito di Cina, Alibaba ha annunciato che investirà nei prossimi 3 anni 28 miliardi di dollari per espandere la propria infrastruttura cloud, visto il forte aumento della domanda per il coronavirus, cioè durante questo periodo di lockdown. Veniamo all'Italia. Amazon, per non mettere in crisi la catena logistica, sta cercando di non invogliare gli utenti a fare acquisti. Sembra incredibile, ma questo non lo fa solo in Italia, ma in vari paesi del mondo. E comunque Amazon fa notizia questa settimana perché ha avuto problemi sulla propria rete. È abbastanza strano. Sono state registrate difficoltà di navigazione sia per l'e-commerce che per altri servizi come Prime Video o Kindle. Ci sono stati problemi anche sulla rete fissa e mobile di Wind 3 e anche Fibra City, che è un piccolo operatore, ad inizio settimana ha lasciato senza connettività una parte dei propri clienti. Allora, effettivamente nelle ultime settimane, visto che Fibra City in particolar modo ha attribuito questi problemi ad un attacco di denial of service, effettivamente nelle ultime settimane sono stati segnalati moltissimi attacchi su tutte le reti e ovviamente gli operatori devono cercare di costruire le proprie difese in modo che i servizi non vadano giù. Ormai la connettività di internet è talmente importante che deve essere un po' come l'energia elettrica, praticamente non va mai via. È anche vero che diciamo che normalmente servizi internet sono abbastanza affidabili. Comunque ogni tanto succede qualche caos con ovviamente inevitabili proteste degli utenti. A proposito di problemi di attacchi, Nintendo ha confermato che 160.000 account del Nintendo Network potrebbero essere stati violati a partire dall'inizio di aprile e per sicurezza la giapponese Nintendo ha momentaneamente bloccato l'accesso agli account. Sempre dall'Italia, abbiamo parlato la scorsa settimana di Esselunga che aveva annunciato di aver iniziato ad utilizzare l'app YouFirst per la gestione delle code per entrare al supermercato. Coop ci ha informati che anche Coop Lombardia, Coop Liguria e Coop Alleanza 3.0, Alleanza 3.0 comprende supermercati in Emilia-Romagna e Nord-Est in modo particolare. Allora Coop sta utilizzando Coda Casa, che permette anche la prenotazione di slot nei giorni successivi. Ci sono alcune soluzioni di questo genere. Segnaliamo anche Zero Coda e anche Coda scritto con la Q, che servono appunto per gestire le file che ci sono in questo periodo in buona parte della giornata e in buona parte delle giornate durante la settimana. L'ultima notizia riguarda il mondo del fintech, che è sempre molto interessante, in grande fermento. Da registrare la raccolta di capitali pari a 128 milioni di dollari messa a segno da Avid Exchange americana, che si occupa di pagamenti online e realizza un sistema per l'automazione dei pagamenti per piccole e medie aziende. La scorsa settimana avevamo parlato della denuncia della FIEG, la Federazione Italiana Editori di Giornali, che aveva chiesto all'Agicom, l'autorità per le comunicazioni italiana, di chiudere la piattaforma Telegram, vista la quantità, la immensa quantità di contenuti illegali che girano su molti canali Telegram. In modo particolare, nelle ultime settimane si è visto un'esplosione di canali, o meglio, di utenti di canali che distribuiscono giornali, i PDF dei quotidiani piratati. Allora, avevamo raccontato delle difficoltà ad ottenere un provvedimento di questo genere. La notizia della settimana è che Agicom ha annunciato che 7 degli 8 canali che erano stati segnalati sono stati chiusi, e questo grazie alla collaborazione di Telegram, che per la prima volta ha risposto alle richieste di un'autorità italiana. Allora, per la verità, poi poche ore dopo i contenuti di questi canali sono riapparsi su altri canali, e questo è uno dei problemi che dovrà essere affrontato, ed è uno dei problemi di cui abbiamo parlato con i nostri ospiti, a cominciare dal commissario di Agicom, Francesco Posteraro. Beh, il dato positivo è che per la prima volta Telegram ha accettato di collaborare, rimuovendo dalla maggior parte dei canali che sono stati segnalati ad Agicom i contenuti caricati in violazione del diritto d'autore, come le edizioni digitali dei giornali. In più, come accade in questi casi, gli atti sono stati da noi trasmessi alla polizia giudiziaria, cosa che potrà consentire alla magistratura di perseguire penalmente gli utenti che caricano illecitamente i contenuti, così come si è fatto ad esempio di recente per le IPTV pirata. È poi vero, come è stato scritto, è poi vero che i canali possono rigenerarsi, ma dobbiamo tener conto che Agicom si attiva solo su istanza di parte e mai d'ufficio, perché noi non siamo, non possiamo essere e non vogliamo essere i controllori della rete. Non è un compito nostro, che poi andrebbe veramente a incidere sulla libertà delle comunicazioni in rete. Quindi da un certo punto di vista è un po' una lotta impari, perché se collaborando con Telegram, e questa sicuramente è una notizia importante, Telegram chiude alcuni canali, ma poi questi si riaprono sotto altro nome o in altro modo, difficile arrivare ad una fine. O lei pensa che questa collaborazione poi in realtà porti ad altro, perché poi, diciamo, se Telegram tira troppo la corda, potrebbero anche muoversi poteri di altro tipo. Io dico, qual è il punto? Il punto è che parlavo io, e lei giustamente lo riprendeva, si parla di collaborazione, perché nei confronti di un sito estero come Telegram, Agicom non ha poteri di Agicom, come nessuna le istituzioni italiane non possono intervenire direttamente. Agicom deve rivolgersi a quei provider italiani che forniscono l'accesso ad internet, e può ordinare solo il blocco totale del sito. La rimozione selettiva non è possibile per ragioni che sarebbe lungo spiegare, sarebbe contrario al diritto dell'Unione Europea. Può ordinare il blocco totale del sito, ma lo può ordinare rispettando il principio di proporzionalità, che è imposto dalle direttive europee ed è imposto, direi, anche dalla logica. Cioè, si può bloccare un sito se è dedito principalmente e professionalmente alla pirateria. Non si può bloccare un sito come Telegram, che offre un servizio di messaggistica, dico tra parentesi, usato in Italia da 9 milioni di utenti e di cui si servono varie istituzioni, come ad esempio anche il Ministero della Salute. Per avere invece un potere di intervento autoritativo, per fare quindi un passo in avanti deciso, ci vorrebbe una norma, e questo è detto anche nel comunicato che abbiamo diramato ieri, ci vorrebbe una norma che consentisse di considerare come stabiliti in Italia quegli operatori extraeuropei che offrono servizi sul nostro territorio utilizzando risorse nazionali di numerazione, e Telegram identifica i suoi utenti attraverso il numero di cellulare. In questo modo, con una norma di questo genere, Agicom potrebbe ordinare a Telegram la rimozione dei contenuti illeciti, non soltanto ottenerla, potrebbe ordinarla. Chiarissimo. Si tratta ovviamente di cose ben diverse. E questo è un punto interessante. Postelaro non esclude che questa modifica di legge possa anche essere presa in considerazione in modo molto serio dal governo o dal Parlamento. Abbiamo sentito su questo ovviamente anche Fieghe, che si era attivata e ha un monitoraggio costante di quello che succede non solo su Telegram ma anche su altri canali. E allora, proprio sulla sfuggevolezza, chiamiamola così, di questi canali che chiudono da una parte e si riaprono dall'altra parte, abbiamo sentito Fabrizio Carotti, che è il direttore generale della FIEG. Allora, direi che ci sono due fenomeni da ricordare. Il primo è l'alta segnalazione e l'evidenza che si sta dando a questo fenomeno. Cioè, non ci scordiamo, è utile sottolinearlo e ricordarlo, ma qui parliamo di reati di natura penale. Quindi caricare e condividere materiale protetto dal diritto d'autore, ma soprattutto anche semplicemente riceverlo, usufruirne, leggere una copia pirata di giornale e magari anche inoltrarlo a qualche amico, non è un atto che si può fare con questa leggerezza con la quale oggi a nostro avviso avviene, perché si stanno compiendo reati penali e, come sapete, in alcune procure italiane si stanno anche perseguendo singole persone che svolgono questa attività. Quindi questo è un punto importante, ricordare che stiamo parlando di reati penali alla diffusione di materiale protetto dal diritto d'autore, con rischi anche importanti, a volte, credo io, per queste 600.000 persone almeno dirette, con qualche inconsapevolezza della gravità del fenomeno. Il secondo punto che diceva lei, sì, è una battaglia che noi diciamo stiamo facendo anche contro siti pirata, che hanno altre nature, e quindi non vorrei confondere in questo momento, ma che purtroppo anche nonostante la nostra azione lì sia addirittura quotidiana. Noi abbiamo un programma che tutte le notti gira sui motori di ricerca per individuare materiale protetto dal diritto d'autore, anche lì vengono rimossi o vengono chiusi i canali e poi rinascono. In questo caso mi sento di sottolineare una novità importante, che Agicom ha sollecitato l'attenzione diretta di Telegram, che direttamente ovviamente non ha nessun interesse a favorire l'illecità dei contenuti e della diffusione dei contenuti tramite i loro canali, e quindi un intervento diretto e con una collaborazione diretta. In poche ore questi canali, diciamo, sono quantomeno costretti a smontare l'alto numero dei loro aderenti. Volevo ricordare che stiamo parlando di una decina di canali che noi monitoriamo, con un complessivo numero di 600.000 iscritti, ma con un canale che da solo ne raggiunge 200.000. E senza annoiare i telespettatori, anche grazie a questo intervento i canali diventano da pubblici privati, quindi diventa anche molto più complicato per loro ricreare la rete dell'illegalità, e quindi noi dobbiamo continuare su questa strada e insieme cercare appunto di portare alla massima riduzione di questo fenomeno, che non scomparirà ovviamente come possiamo tutti immaginare, ma che deve tornare a essere contenuto in limiti fisiologici, direi così. Se guardiamo all'esperienza della musica, che può insegnare un po' a tutti i detentori di diritti, ai produttori di contenuti, che cosa significa fare la lotta alla pirateria, anche al mondo del video con la diffusione dei servizi di streaming, per cercare di limitare e combattere questo fenomeno, sicuramente il lato dell'offerta e anche della facilità con cui si può accedere a questo tipo di offerta, appunto parlo di musica e parlo di video, è un elemento importante. Da questo punto di vista possiamo dire che gli editori dovrebbero fare anche un'analisi più approfondita al loro interno, e quindi affrontare la digitalizzazione in modo più efficace rispetto a quello che hanno fatto fino ad oggi? La domanda è interessante, ovviamente ha in questo ovviamente un retropensiero che vuole in qualche modo trovare delle forme di facilitazione alla condivisione dei giornali. Allora, distinguerei due punti. Innanzitutto ricordiamo che l'offerta legale, cosiddetta, per usare un termine tecnico, cioè l'offerta che riesce ad incontrare la domanda di lettura, che è altissima, e su questo lo possiamo dimostrare ormai con tutti i numeri a disposizione, in un momento particolare come questo della pandemia, e i lettori si rivolgono ai brand tradizionali e professionali soprattutto, in cui la garanzia dell'informazione fornita è alta. Quindi questo è un punto importante che vorrei sottolineare. Secondo punto, lo stesso numero, diciamo, dei soggetti che purtroppo utilizzano copie, e qui sottolineo copie di giornali, stiamo parlando non di informazione pura online, ma parliamo di copie di giornali scaricate, quindi è come la copia fisica del giornale che si potrebbe e dovrebbe andare a comprare in edicola. Tra l'altro ricordo che questo fenomeno colpisce una filiera di più di 90.000 persone, dai poligrafici che stampano il giornale, ai quelli che lo montano, ai distributori che portano i giornali, agli edicolanti in prima linea per la diffusione. Comunque, al netto di tutto ciò, è ovvio che la semplicità e la facilità con cui purtroppo questi giornali vengono veicolati, perché manipolati tecnologicamente da questi pirati che hanno delle convenienze economiche gigantesche, e ricordiamo anche i pericoli di iscriversi a queste chat illegali in cui il phishing piuttosto che altre forme, diciamo, di sfruttamento dei dati di coloro che si iscrivono pensando che il prodotto sia gratuito, che, come sappiamo, quando il prodotto è gratuito vuol dire che il prodotto sei tu cliente che ti associ pensando di avere un beneficio di non si sa quale natura. Di fronte a questi rischi è ovvio che, per non eludere la sua domanda, gli editori dovrebbero semplificare al massimo l'accesso da un punto di vista tecnico e tecnologico, in modo da avere facilità appunto di download di queste copie di giornali che purtroppo con questi sistemi sono avanzati, e dall'altro di una maggiore attenzione a quelle che sono le politiche di pricing, appunto, come dicevo, l'offerta legale. Però bisogna anche dire che in questo momento, dove tra l'altro il fenomeno di pirateria aumenta in maniera esponenziale, le offerte degli editori, tutti, sia dell'intrattenimento, sia delle news, sia dei periodici, che vanno incontro con prezzi direi assolutamente simbolici alla domanda di informazione, sono tali e tanti che forse non sono la giustificazione della pirateria. Dunque, tra poco ci occuperemo di agricoltura 4.0, di agritech, cioè delle tecnologie, di come le tecnologie stanno trasformando o potrebbero trasformare il mondo dell'agricoltura. E poi sarà con noi David Orban per parlare di come è cambiata la nostra vita in questo momento, la nostra vita digitale, ovviamente. Adesso parliamo dello spazio, perché c'è stata una prima nello spazio in questi giorni, e adesso ci facciamo raccontare tutto da Luigi Bignami, giornalista, divulgatore scientifico. Luigi, bentornato a 2024. Grazie mille. Potremmo inserire quello che è accaduto questa settimana nel capitolo automazione spaziale. Allora raccontaci che cosa è successo. È accaduto che un satellite della Intelsat è stato agganciato da una, io lo chiamerei un satellite caro attrezzi, che è stato lanciato da terra ed è stato spostato da un'orbita all'altra per farlo sopravvivere nel tempo. Per capire quello che è avvenuto esattamente andiamo per passi. C'era un satellite, l'Intelsat 901, un satellite per telecomunicazioni, che dopo la sua vita stava per terminare il carburante, e quando un satellite termina il carburante viene spostato dall'orbita geostazionaria, cioè dall'orbita che si trova a circa 36.000 km dalla superficie terrestre, in un'altra orbita, una specie di cimitero degli elefanti dei satelliti, e lì rimangono, diciamo, in eterno fin quando qualcuno pensa di andare a prenderli e poi fare pulizia. Questo satellite però era ancora in buone condizioni, non aveva più carburante, perché il carburante serve per poterlo spostare da un punto all'altro della Terra, per coprire aree piuttosto di altre, o anche semplicemente per spostarlo leggermente dall'orbita su cui si trova, perché a volte proprio il satellite tende a scendere verso la superficie della Terra per la forza di gravità e anche per una piccolissima quantità di atmosfera che c'è ancora a quella quota. Ebbene, questo satellite, ancora in buone condizioni, doveva essere diciamo buttato. Allora Intelsat ha chiesto alla Northrop Grumman di dare vita a un progetto che aveva nel cassetto, cioè quello di costruire un satellite che fosse in grado di andare a prendere il satellite ormai diciamo così morto per mancanza di carburante, di riportarlo sulla sua orbita e di tenerlo in vita per un altro periodo. E così è stato. Alla fine dell'anno scorso è stato lanciato questo satellite che il 25 febbraio ha raggiunto a 290 chilometri sopra la quota dei 36.000 chilometri dove stava lì il satellite della Intelsat, e dopo aver controllato che tutto funzionava alla perfezione, proprio in questi giorni lo ha riportato sull'orbita precedente e ora sarà il satellite Caro Attrezzi a eseguire tutte le manovre per altri 5 anni, fin quando, così si pensa, l'Intelsat davvero sarà giunto ad un livello di degrado per cui non ci sarà più nulla da fare, cioè per esempio i pannelli solari non saranno più in grado di fornire energia. A quel punto cosa si farà? Beh, il satellite il Caro Attrezzi, che è chiamato MEV-1, che sta per Mission Extension Vehicle, lo riporterà nella quota che ho chiamato il cimitero degli elefanti per i satelliti e lì lo abbandonerà, ma non sarà finita la sua missione perché qualcun altro lo potrà richiedere per far sopravvivere il satellite in questione, e questo per altri 15 anni. Quindi potrebbe andare a salvare altri satelliti. Esattamente così, perché proprio la Grumman ha detto che potrà vivere per 15 anni. E la cosa che direi secondo me eccezionale è il fatto che questi signori hanno trovato il modo di andare a salvare un satellite senza che il satellite fosse stato pensato per poter essere salvato. Cosa hanno fatto? Hanno costruito una specie di lungo ago che attraverso una molla è stato posizionato vicino al motore del satellite, al piccolo motore che hanno anche i satelliti per telecomunicazioni, e hanno infilato questo ago all'interno del motore. E come sappiamo, a queste quote i satelliti non hanno peso, non è che non hanno massa, ma non hanno peso, sono lì e basta pochissima spinta per spostarli. Quindi proprio anche con un filo, diciamo con una piccola bacchetta in acciaio, possono spostare il satellite là dove lo vogliono, e questo si ripeterà anche per gli altri satelliti, quindi davvero una cosa direi eccezionale sia per la missione andata a buon fine, sia per il modo come è stato pensato, sia perché il futuro sarà quello di avere satelliti che potranno avere, prolungare la loro vita con satelliti estremamente meno costosi, perché ovviamente un satellite caro attrezzi non deve avere tutta l'attrezzatura che è un satellite per telecomunicazioni, e quindi diciamo si apre davvero una nuova frontiera in questo settore. Molto interessante, e ricordiamo Luigi che non è sempre detto così, però diciamo nella stragrande maggioranza dei casi la vita del satellite è legata alla quantità di carburante che si può caricare a bordo, cioè la vita del satellite, che può essere, ad esempio in questo caso era, mi sembra, 13-15 anni, grosso modo sono quelli gli anni della vita di un satellite, potrebbero durare di più. Conferma ne è che questo con il suo satellite Caro Attrezzi può durare di più, ma perché le apparecchiature potrebbero durare di più, ma è legato a quanto carburante riesce a caricare, più di tanto non ne puoi caricare. Esattamente così, perché quel carburante, ricordiamo innanzitutto che un satellite una volta in orbita non viene continuamente spinto da un motore, una volta che ad una certa quota e possiede una determinata velocità il satellite continua a ruotare attorno alla Terra, ma il satellite si sposta leggermente e quindi viene caricato del carburante per ridargli l'orbita corretta. E a volte un satellite per telecomunicazioni viene spostato anche di notevole distanza, perché magari c'è un altro satellite che è andato in avaria e allora bisogna coprire quella zona del pianeta, e allora si prende magari un satellite che in un certo momento si trova in una zona, in un periodo di stand-by, lo si sposta e quindi si consuma carburante, e tutto questo naturalmente ad un certo punto fa sì che il satellite non abbia più il carburante necessario per tutte queste operazioni e quindi deve morire. E per fortuna da alcuni anni a questa parte non lo si abbandona sulla quota dove lavorano altri satelliti, perché altrimenti diventerebbe davvero molto pericoloso con il passare del tempo. Lo si sposta ad una quota dove non dovrebbero in futuro, nemmeno prossimo o lontano, esserci altri satelliti, e lì lo si abbandona. E ecco per cui la necessità del carburante, e quando il carburante muore diciamo così, come hai detto giustamente, muore anche il satellite. Luigi, grazie per essere stato con noi, a presto. A presto e un saluto a tutti. Dunque, adesso parliamo di agricoltura 4.0, agri-tech o agri-food, ci sono varie declinazioni, ma il succo è come la tecnologia sta trasformando il mondo dell'agricoltura o dell'allevamento, come potrebbe trasformarlo. Questa settimana sono stati presentati i dati aggiornati dell'osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Brescia. Il direttore dell'osservatorio è il professor Andrea Bacchetti. Ma diciamo che è il paradigma, quello dell'agricoltura 4.0, che sta attecchendo in maniera sempre più significativa all'interno del mercato italiano. Le do un numero su tutti. Noi presidiamo, monitoriamo su base annua la dimensione del mercato di agricoltura 4.0, che deriva dalla sommatoria dei fatturati di tutti i provider, no, delle tecnologie che lei citava, che stanno appunto all'interno del perimetro dell'agricoltura 4.0. Ecco, questo dato, lo abbiamo misurato, è di 450 milioni di euro ed è una crescita superiore al 20% rispetto alla rilevazione dello scorso anno. È chiaro che stiamo parlando in senso assoluto di un mercato ancora relativamente piccolo, che incide su una quota parte di imprese agricole ovviamente molto ridotta rispetto al totale delle aziende agricole che ci sono in Italia, però il fatto che ci sia una crescita continua anno su anno in doppia cifra ci fa pensare che il percorso sia in atto e per certi versi sia un percorso ineludibile almeno per le medie e le grandi aziende agricole italiane. Dunque, adesso c'è una breve pausa, riprenderemo tra poco parlando di tecnologie, cioè cosa significa agricoltura 4.0, agri-tech, eccetera, eccetera, tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, in replica domenica alle 13.10. E naturalmente trovate una ricca versione podcast, il nostro super podcast online, sul nostro sito attraverso la nostra applicazione o le tante applicazioni per riascoltare i podcast, a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Stiamo parlando di agri-tech, di smart agri-food, con il professor Andrea Bacchetti, che è il direttore dell'osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico di Milano e dell'Università di Brescia. E adesso parliamo di tecnologia, che cosa significa agricoltura 4.0, ma soprattutto quali sono gli ultimi trend. I trend più interessanti hanno un fattore comune, che è quello legato alla gestione dei dati. Il dato, ma ce lo dicono i numeri, quindi non è semplicemente uno slogan, è per davvero al centro del paradigma 4.0, non solo in manifattura, ma anche, e lo stiamo vedendo, in agricoltura. Infatti, quali sono le tecnologie che dominano in termini di percentuale di rilevanza, no, nell'ambito del numero, della dimensione del mercato che citavo prima? E abbiamo la sensoristica Internet of Things, che in campo consente di raccogliere dati in modo anche continuativo, in tempo reale. Questi dati vengono trasmessi a delle piattaforme software, che infatti sono al secondo posto di questa graduatoria, e sono piattaforme che devono essere capaci di appunto accogliere, memorizzare, eventualmente anche tradurre alcuni di questi dati, perché chiaramente sono dati che provengono da fonti variegate. Ho citato la sensoristica IoT, ma posso citare il trattore, qualsivoglia mezzo agricolo, le attrezzature installate sui mezzi agricoli, i silos per lo stoccaggio, i campi stessi attraverso delle opportune paline sensorizzate. Quindi sono diverse tipologie di dati che in tempo reale devono in qualche modo poter essere alloggiati all'interno di queste piattaforme, su cui devono poter incidere dei software di analisi che siano capaci di incrociare evidentemente questi dati e fornire all'imprenditore agricolo un vero strumento di supporto alle decisioni, che lo possa aiutare nel prendere decisioni più rapide, più consapevoli, perché basate su dati quantitativi e potenzialmente anche non essendo fisicamente in loco. E questo non è un dettaglio, mi permetto di aggiungere, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, dove gli spostamenti non sono necessariamente facili, dove ci sono problematiche anche legate alla carenza di manodopera, è un tema ben noto. Ecco, le soluzioni tecnologiche che noi in qualche modo includiamo nel perimetro dell'agricoltura 4.0 possono fornire un aiuto importante e concreto anche e soprattutto in un periodo come questo. Le faccio una domanda sulle competenze, sulla sensibilità che gli imprenditori, in questo caso agricoli o imprenditori zootecnici, hanno nei confronti di questa tecnologia. Che cosa manca dal vostro punto di vista affinché queste tecnologie si diffondano e diventino di uso normale, comune in tutte le aziende? Guardi, mancano essenzialmente tre cose, almeno questo è quello che ci dicono le imprese agricole che partecipano alle nostre indagini. Quest'anno ne abbiamo coinvolte circa 300 nella nostra indagine, rivolta proprio a produttori agricoli. Il primo elemento che manca è un tema legato alla connettività, quindi un tema infrastrutturale, se vogliamo un fattore esogeno rispetto a quelle che sono le aziende agricole. Ed è chiaro che sul tema della connettività ancora tanto deve essere fatto, perché gran parte delle tecnologie che ho citato hanno bisogno di connessione, hanno bisogno di una connessione stabile e possibilmente con una banda larga. Ma questo è un tema infrastrutturale su cui si può aprire un mondo in termini di discussione. Preferisco concentrarmi sugli altri due punti che si evidenziano come gli ostacoli più forti. Uno è un tema fortissimo, quello della interoperabilità tra i diversi sistemi. Cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a far parlare la stessa lingua a due sistemi che nativamente ne parlano di due differenti. E questo è un tema fondamentale, perché è quello che dicevo prima: se diverse fonti di dati devono alimentare la stessa piattaforma, ma queste fonti di dati nativamente utilizzano un linguaggio differente, è chiaro che poi o la piattaforma riesce, come dire, a identificare un linguaggio comune e quindi poi permettere ai software che ci lavorano sopra di analizzare, di incrociare questi dati, oppure è un disastro, perché si torna alla logica dei silos, in cui il trattore ha la propria piattaforma e il proprio applicativo, in cui la palina sensorizzata con il sensore IoT ha la propria piattaforma e il proprio software di analisi. Qual è il risultato per l'imprenditore agricolo? Non solo e non tanto che deve fare N investimenti, ma il problema è che ciascuno di questi investimenti dà un risultato molto verticale, no? Che rimane all'interno di un silos, senza permettere invece l'opportunità di ragionare in modo trasversale. Terzo elemento, ed è quello che citava in apertura di domanda, è proprio quello delle competenze. Le imprese agricole sono perfettamente consapevoli del fatto che questo è un elemento estremamente critico ad oggi, e ne sono più consapevoli tanto più iniziano ad investire in soluzioni di agricoltura 4.0, perché investendo e quindi poi utilizzando concretamente le soluzioni acquistate si rendono conto della difficoltà nello scaricare a terra quelle che sono le potenzialità della tecnologia in cui hanno investito. Mi permetta di dire che non è solo un tema di competenze tecnologiche, di competenze verticali. Certo, è chiaro che è fondamentale la competenza tecnologica. Se investo in sensori IoT, se investo in software di analisi di big data, è chiaro che una qualche tipologia di competenza specialistica associata a questi strumenti me la devo creare, e di base non c'è all'interno delle imprese. Ma c'è un altro elemento potenzialmente ancora più critico, spesso sottostimato, che è legato alla componente più, mi faccia dire, organizzativa, gestionale perché finché investo in un'unica soluzione, ok, ho la mia diciamo evoluzione tecnologica, capisco qual è la competenza di cui ho bisogno, cerco di formare le mie persone in qualche modo per rimediare. Ma quando l'investimento diventa più importante, perché va a suddividersi su più linee, perché agisco su più tecnologie, il vero tema poi è organizzarle, è integrarle, è armonizzarle. E lì sono competenze organizzative e gestionali molto più soft, che tipicamente devono spettare all'imprenditore, su cui oggi si parla ancora poco, perché il focus è sulla tecnologia, ma man mano che aumenta il numero di tecnologie in cui le imprese investono, perché vedono i potenziali benefici, è chiaro che aumenterà o dovrà necessariamente aumentare l'enfasi anche verso questa seconda tipologia di competenze. Vedo dalla mappa che voi avete fatto che dal 2013 ad oggi avete contato 737 start-up finanziate per oltre 13 miliardi. Mi verrebbe da dire, sono poche start-up nel mondo agri-food, pensavo fossero di più, che però hanno ricevuto un discreto quantitativo di denaro, perché stiamo parlando di 13 miliardi anche se a livello globale. Queste start-up che cosa fanno in prevalenza? Certo, guardi, anche questa è una domanda interessantissima. Ci siamo resi conto anche noi di questa apparente anomalia. Cioè, se noi guardiamo anche solo al mercato italiano, poi magari lo allargo a livello internazionale, i 450 milioni di euro che costituiscono ad oggi la dimensione del mercato, quantomeno da noi stimata, e ci rendiamo conto che solo il 14% di questo monte è da ricondursi effettivamente ad aziende emergenti. Il restante 86 è di spettanza di aziende tradizionali che chiaramente progressivamente nel tempo innovano, integrano i loro portafogli, il loro modello di business proprio coerentemente con l'evoluzione tecnologica. Quindi da questo punto di vista per le start-up non è una vita semplicissima, ma è anche abbastanza ragionevole che sia così, perché l'imprenditore agricolo è un imprenditore piuttosto abituato a costruire relazioni nel tempo con dealer, con rivenditori, con case madri, e quindi è più portato a fidarsi dell'evoluzione del portafoglio anche in direzione 4.0 di un'azienda di questo tipo piuttosto che di una startup. Detto questo, le startup comunque stanno avendo un ruolo importante, soprattutto su quel filone che citavo poc'anzi, cioè quello dei software per l'analisi dei dati ospitati sulle piattaforme e soprattutto sulla sensoristica Internet of Things. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo intrattenuto relazioni con aziende emergenti di questo tipo e abbiamo visto che c'è un fortissimo interesse da parte delle aziende tradizionali a sviluppare collaborazioni, a stipulare delle partnership. Quindi non è che venga meno, no, quello che tipicamente è l'effetto propulsivo all'interno di un mercato da parte delle aziende emergenti. Diciamo che in agricoltura, ancor di più che non per esempio in manifattura, si nota una maggiore difficoltà ad entrare ex novo, pur con competenze digitali forti. Perché? Perché manca quel know-how agricolo di cui molto spesso gli imprenditori hanno bisogno per poter come dire, lanciarsi con fiducia in investimenti di questo tipo. Sì. Le faccio un'ultima domanda, visto che voi avete inserito addirittura nel titolo il boom della blockchain per la tracciabilità, non posso non fare una domanda su questo, anche perché io personalmente sono sempre molto prudente e invito alla prudenza quando sboccia il nome blockchain, anche perché poi sotto questo cappello ci finisce un po' di tutto. Qual è la vostra idea di questi progetti? Stiamo parlando di progetti sperimentali che non si sa dove vadano a finire o stiamo parlando di qualcosa di concreto? No, stiamo parlando anche di qualcosa di concreto. Noi ne abbiamo presentati anche un paio evidentemente nell'ambito del nostro evento. Abbiamo realizzato una mappatura a livello italiano ma poi anche a livello internazionale. Ci siamo resi conto che l'agri-food, perché qui davvero è importante allargare la vista, non parliamo più solo di produzione agricola, parliamo dell'intera filiera agri-food che parte dal produttore, ma poi finisce di fatto con chi vende, passando per tutti gli attori della trasformazione. Tipicamente questi progetti di blockchain sono progetti finalizzati a aumentare il livello di tracciabilità e poi evidentemente a ritroso di rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera, e abbiamo visto che i benefici che tipicamente sono ricercati dalle imprese che promuovono questi progetti sono tendenzialmente imprese o che trasformano i prodotti oppure addirittura ancora più a valle nella filiera che li rivendono, quindi tipicamente la grande distribuzione. Di solito sono gli attori che promuovono, poi è chiaro che progetti di questo tipo devono risalire per ovvi motivi la filiera e devono arrivare fino alla produzione agricola, perché la rintracciabilità del prodotto può essere garantita se e solo se io parto evidentemente con le operazioni in campo, quindi da chi produce. Ebbene, se noi andiamo a vedere quali sono tipicamente gli obiettivi di questi progetti, al primo posto c'è il tema della opportunità commerciale, cioè dello sfruttare evidentemente anche in termini di marketing la maggiore trasparenza, la maggiore garanzia di sicurezza evidentemente dei prodotti, che è un elemento sempre più richiesto, no, dai consumatori. In secondo luogo c'è un tema di efficienza di processi lungo la supply chain, che quindi ha un obiettivo di riduzione complessivi di costi che poi si devono scaricare evidentemente sul consumatore più a valle. Terzo elemento molto importante, ed è un tema su cui si potrebbe fare una riflessione ampissima, che è quello della sostenibilità, sia in termini di sostenibilità ambientale, e questa è fortissima evidentemente in campo ed è sempre più sentita dalle aziende agricole, ma anche poi muovendosi lungo la filiera arrivando al consumatore finale, di fatto una sostenibilità che diventa anche sociale. E questo era il professor Andrea Bacchetti, direttore dell'osservatorio Smart Agri Food del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Brescia. Adesso due testimonianze per scendere anche sul campo. Iniziamo da Roberto Sarasso dell'azienda agricola Palestro. Sì, l'azienda di cui sono conduttore è un'azienda risicola nel Vercellese, e la tecnologia di cui stiamo parlando è la tecnologia dell'agricoltura di precisione. E noi siamo partiti forse tra i primi per quanto riguarda la risicoltura. Difatti già nel 2000 abbiamo cominciato un primo approccio, ovviamente non si poteva ancora parlare di agricoltura 4.0, ma si trattava del primo step dell'agricoltura 1.0, e quindi le tecnologie erano ancora abbastanza semplici e riguardavano solo ad esempio la guida parallela, la mappatura delle rese, ossia verificare attraverso dei sistemi georeferenziati come era distribuita la produzione all'interno dei propri campi. E quindi queste sono state le prime tecnologie che si sono applicate. Ecco, poi le cose ovviamente sono diventate 2.0, 3.0, 4.0. Se guardiamo, esatto, ad oggi, che tipo di tecnologie applicate? Ma oggi la mia azienda penso che si possa fregiare della tecnologia 4.0, anche se non è ancora completamente integrata, perché per arrivare effettivamente a un'agricoltura 4.0 bisogna disporre probabilmente anche di una rete di comunicazione dati che ci sarà quando sarà disponibile per tutti il 5G, in modo da poter integrare anche i dati che arrivano dai sensori remoti, che permettono di valutare anche alcuni parametri direttamente della coltura in campo. Quindi questi dati potrebbero essere trasmessi direttamente o su un tablet o su uno smartphone o addirittura su un PC in rete, e quindi diciamo da casa uno potrebbe valutare certe cose che attualmente invece vanno ancora valutate direttamente in campo. Facendo un esempio di come applicate la tecnologia, partendo, sì, anche dai sensori, quali sono i vantaggi che voi traete? Beh, allora, certamente in 20 anni di passi avanti se ne sono fatti parecchi. Prima cosa, attraverso appunto le sensoristiche di cui parlavo prima, quindi la mappatura delle reti, siamo riusciti ad elaborare delle mappe di cosiddette di prescrizione, ossia le fertilizzazioni non vengono più fatte a dose fissa, ma vengono fatte in base alla produttività del campo negli anni. E quindi noi valutiamo dove, all'interno del campo, dove ci sono delle aree di maggiore o minor produzione, che sono ovviamente riconducibili al fatto che la coltura abbia bisogno di maggiore fertilizzazione o meno, e quindi noi siamo in grado di distribuire il fertilizzante geolocalizzato attraverso la tecnologia appunto dei satellitari di GPS, e quindi diamo in ogni punto del campo la dose di fertilizzante che serve, è solo quella, e quindi evitiamo le carenze e anche gli eccessi, ovviamente. E questo, diciamo, è un vantaggio. Ci sono questo altri... è il primo vantaggio, ecco. Certamente. Poi abbiamo anche un'altra tecnologia che ci permette di valutare la coltura quando c'è, quindi noi facciamo la fertilizzazione prima della semina, ma facciamo anche delle fertilizzazioni più avanti, perché ovviamente frazionando il fertilizzante si ha una maggiore efficienza nel suo utilizzo da parte della coltura. E quindi cosa succede? Quando effettivamente abbiamo già la parte verde del nostro riso, noi abbiamo a disposizione adesso dei sensori che ci permettono di valutare il vigore vegetativo, e quindi questi sensori montati direttamente sul trattore sono in grado di comandare lo spandiconcime, e quindi leggono mentre il trattore avanza all'interno del campo, leggono proprio come, diciamo, potremmo fare anche noi con la nostra vista, se fossimo in grado di valutare il verde, il colore verde o meno verde della coltivata, con ovviamente una sensibilità molto superiore a quella del nostro occhio. E in base a questo danno un input, quindi danno il comando allo spandiconcime e gli dicono di utilizzare maggiori o minori dosi di fertilizzante. Con tutti i vantaggi ovviamente del caso, cioè si risparmia, si consuma meno, ma si inquina anche meno, perché l'eccesso poi finisce ovviamente nei canali, nei fiumi e nelle falde acquifere. Dal riso passiamo al vino. Denise Vicino, dell'azienda Terre Grosse. Allora, si tratta di una tecnologia che prevede l'uso di sensoristica nel vigneto. Noi siamo un'azienda vitivinicola, quindi ci occupiamo della coltivazione della vite prima e poi della vinificazione dell'uva. Quindi una tecnologia che ci permette di conoscere meglio l'ambiente in cui si sviluppa la pianta della vite e di controllarne meglio i rischi a cui è soggetta, per esempio. La nostra è un'esperienza molto personalizzata, in quanto sulla base delle nostre esigenze in vigneto siamo andati a creare dei nuovi sensori che misurano delle cose nuove, diciamo, rispetto allo standard. Innanzitutto ci sono dei sensori, diciamo, tradizionali che misurano la piovosità, la temperatura, la pressione dell'aria, quindi dei generici sensori climatici. Ma abbiamo introdotto dei nuovi sensori che misurano in particolare l'accrescimento della vegetazione, quindi la misura di nuova superficie fogliare, e poi cose più specifiche che misurano il gocciolamento d'acqua dalle foglie e infine la bagnatura superficiale a livello del suolo. Queste ultime due misure così specifiche possono suonare un po' strane, in realtà sono molto importanti perché sono dei fattori che entrano nel rischio di infezione di alcune malattie fungine, in particolare la peronospora della vite, che è una malattia molto rischiosa nelle nostre zone. Certo, una delle più diffuse e più dannose da sempre, da tanti anni. Assolutamente sì, possiamo dire, da moltissimi anni, in particolare nella nostra zona del Veneto. Questi sensori che tipo di informazioni poi vi danno, tutti raccolti ed elaborati? Allora, ovviamente i dati climatici in generale, anche solo osservati nel loro insieme da un portale web, come si fa oggigiorno con questo tipo di dispositivi, ci danno un'idea generale di quello che è lo stato della vigna e il possibile avanzamento di malattie. La cosa più importante è avere, come dicevi, qualcosa che elabori questi dati, quindi che non sia solo l'utente agricoltore ad interpretarli. Infatti stiamo studiando un software, un modello previsionale, che analizzando questi dati fornisce un indice di rischio di malattia, in questo caso proprio della peronospora della vite. Questa è una cosa ancora in corso d'opera nell'ambito di un progetto che si chiama PV Sensing, finanziato dal PSR Veneto, e che, diciamo, è nato nella nostra azienda e poi ha coinvolto diverse altre aziende del circondario. Quindi diciamo che per ora noi osserviamo molto analiticamente questi dati. Fra poco sarà possibile avere questo software che ci dà un'idea più concreta di quella che è la loro utilità, quindi guidando l'agricoltore attraverso un indice di rischio di infezione. Ci sono altre tecnologie che voi applicate da tempo e quindi sulla quale voi potete fare già un bilancio di vantaggi che avete avuto? Già questo progetto ci ha permesso di fare uno studio non solo sulla nostra azienda, ma su un'altra decina di aziende coinvolte, su come dall'elaborazione però a posteriore di dati di campo l'utilizzo di questi strumenti permette una riduzione di almeno il 15% dei trattamenti fitosanitari. Una percentuale che tuttavia va presa un po' con le pinze, come ogni numero legato all'agricoltura, perché lo studio è stato fatto su due annate, 2018 e 2019, che hanno avuto le loro caratteristiche particolari di piovosità, quindi è ancora difficile estendere questo numero con generalità, diciamo, a tutte le aziende, a tutte le annate, però sicuramente è già stato un indice importante. Se posso dire, a livello di nostra esperienza personale, di queste misure che abbiamo introdotto in vigneto, quella più importante e in assoluto la più innovativa è quella dell'accrescimento fogliare, che può suonare nuova come variabile da tenere in considerazione. In realtà è molto molto importante, perché nella vite, come in tantissime altre colture e soprattutto nel biologico, che è il regime in cui opera la nostra azienda, il tessuto fogliare nuovo che si sviluppa è scoperto dai trattamenti fitosanitari di copertura e pertanto è più soggetto alle nuove infezioni. Quindi per noi poter vedere in maniera quantitativa alla nuova vegetazione è estremamente importante per decidere quando è davvero necessario rientrare in campo con un nuovo trattamento, perché la vegetazione nuova potrebbe essere scoperta e quindi soggetta molto probabilmente a un'infezione. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, in questa ultima parte con noi David Orban, fondatore di The Network Society, docente alla Singularity University. A distanza di sicurezza, David, bentornato a 2024. Grazie Enrico, in effetti a te fa piacere che io venga in studio, ma giustamente adesso in studio non siamo. Come stai vivendo questo momento complicato, difficile, tu che poi giravi il mondo? Allora, come molte persone, il mio reddito si è azzerato, perché gli investimenti che faccio sono qualcosa che torna, non so, a 5 o a 10 anni di distanza, non genera di per sé reddito, no? Mentre mie società, che attraverso contratti di agenzia oppure l'organizzazione diretta fanno conferenze, adesso stanno cercando di fare di tutto per accelerare la organizzazione e l'erogazione di conferenze digitali, dove sponsor e partecipanti devono avere la percezione chiara di un valore che comunque ricevono e quindi essere disposti a pagare. E questo è un elemento importante. Poi io adesso ti sto parlando da casa mia a Villa Dalmè, nella provincia di Bergamo, dove in effetti ho avuto modo anche online di raccontare un po' la situazione. È paradossale, perché chi è a casa non è malato, sta bene, ma la pressione psicologica delle campane, delle sirene, del passaparola anche con i vicini, dove ci sono persone morte anche molto vicine a noi, anche se per fortuna non amici o parenti, è elevatissima. E avevo modo di anche raccontare questo avvertendo i miei vari team in Sud America, negli Stati Uniti, in particolare cercare di instillare un senso di timore razionale nelle persone per prepararli a quello che sarebbe accaduto, così come in effetti poi è stato, perché oggi il bastone, la staffetta virtuale da Bergamo è passata a New York. Senti, dal punto di vista tecnologico, quello che stiamo vivendo, secondo te, che cosa ci lascerà, che cosa ci sta insegnando? Le implicazioni sono enormi da un punto di vista macroeconomico, sociologico, culturale, e forse l'aspetto più interessante da un punto di vista tecnologico è la dimostrazione della capacità di collaborazione globale che si può ottenere nel momento in cui c'è il desiderio di fare fronte comune di fronte ad un nemico che sta attaccando tutti. Nei film hollywoodiani era l'alieno, perché i film di pandemie si concentravano su storie private o locali, mentre quello che stiamo vivendo oggi attraverso i nostri mezzi di comunicazione globale e di collaborazione di gruppo su scala è questa capacità scientifica, ingegneristica, di produzione, e sta dando risultati fantastici. Non c'è il rischio che poi, quando torneremo chissà quando alla normalità, una pseudo normalità, si torni indietro e quindi ci si dimentichi di tutte le cose che stiamo imparando? Sicuramente gli strumenti c'erano già per implementare processi, procedure all'interno dell'azienda che permettessero di digitalizzare tantissimo. L'esempio più banale è la firma elettronica di un contratto che in Italia, così come in tantissimi altri paesi del mondo, ha valore legale. Quindi nel momento in cui chiunque ti chiedeva di stampare e firmare la carta per poi inviarlo per posta o per corriere, faceva qualcosa di inutilmente farraginoso e dispendioso. Di esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Le persone che speravano di svegliarsi dall'incubo di internet e vedere che in effetti è stato, come loro speravano, una moda passeggera e che si tornava ai bei tempi quando, non lo so cosa si immaginano i bei tempi che erano, queste persone oggi devono fare marcia forzata verso l'adozione di strumenti che cercavano di tenere alla larga. E uguale naturalmente le aziende dove lavoravano o che addirittura gestivano. Io spesso in modo un po' sarcastico faccio notare, quando parlo alle conferenze, che ricevendo un'email dove a piedi pagina c'è scritto "rispetta l'ambiente, non stampare questo messaggio", mi trovo proiettato nel millennio passato. Chi è che oggi sente la necessità di stampare le email, dove addirittura l'azienda fa finta di essere ecologicamente così conscia da metterlo a piedi pagina "non stampare l'email"? Le aziende oggi che si trovano in questa digitalizzazione forzata sono naturalmente un po' nel panico, come è giusto che sia, ma hanno una grande opportunità di approfittare di questa situazione, tenendo conto naturalmente delle difficoltà che derivano da parte delle persone che non si sono organizzate prima e si trovano i figli in casa, si trovano un parente malato che non possono andare a visitare, si trovano in condizioni veramente molto complesse, ma se l'azienda cerca di tener conto di quegli aspetti e di toglierli dall'analisi, di consolidare il fatto che effettivamente tantissime cose si possono fare in modo più snello, più flessibile, e anche appunto da remoto. Sì, con tutti i rischi però di aver fatto questo passaggio anche culturale, organizzativo, in fretta e furia, mentre queste cose andrebbero fatte con calma, ragionate, progettate. Allora, è inutile piangere sul latte versato. Le aziende italiane che non si sono digitalizzate nei 20 anni scorsi adesso possono decidere di andare a morire sull'altare di Covid e dare la colpa a Covid, quando invece tra 2 anni o 3 anni, si spera, quelle aziende che ne avranno approfittato invece per una trasformazione duratura, trionfanti diranno: caspita, ce l'abbiamo fatta, è stato un momento terribile, ma abbiamo passato il guado ed eccoci rinati in una forma diversa. Ti faccio un esempio. Molti dei nostri ascoltatori conosceranno WordPress. È una piattaforma popolarissima per creare siti web. Esiste in due forme, una forma commerciale sul dominio wordpress.com e una forma open source gestita da una fondazione dove chiunque può scaricare e lanciare il proprio sito. Ci sono statistiche che dicono che circa il 30% dei siti del mondo è basato su WordPress. E Matt Mullenweg, che l'ha fondato circa una quindicina di anni fa, e l'azienda Automattic, con due T dal suo nome, fin dall'inizio ha voluto un'azienda che fosse snella, moderna e decentralizzata, remota, dove lavorare dove si vuole, che sia uno spazio di coworking, il bar preferito o una stanza in casa propria, in un qualunque paese, fosse la scelta che ognuna delle persone nel team poteva fare e non l'eccezione di una minoranza un po' invidiata, un po' additata, un po' che se ne parla male perché le male lingue dicono: ma sì, quelli stanno a casa e poi non fanno niente. E oggi Automattic ha ha un valore, non è quotato in borsa, ma in base agli ultimi investimenti ricevuti, ha un valore aziendale di quasi 3 miliardi di dollari, 1200 persone in decine di paesi nel mondo e senza un ufficio. Ha una sede legale perché è richiesto, ma non hanno un ufficio. E la cosa è naturalmente straordinaria, possibile perché fanno tutto nel digitale, non hanno un'acciaieria, non fanno le raccolte agricole, ma questa cosa è esaltante ed è una cosa che anche psicologicamente, ecologicamente, culturalmente punta verso delle possibilità che, a cui molti si possono ispirare. Cioè, questo è interessante, mi sembra però, ed è uno dei motivi per cui sono sempre abbastanza titubante nel parlare di smart working, perché dal punto di vista tecnologico forse molte cose sono note o conosciute, non sono certo delle novità. Mi sembra che questo passaggio sia più che altro culturale e organizzativo. E spesso il cambiamento culturale organizzativo è l'ostacolo maggiore in tutte le aziende. Però poi ti lascio rispondere, ma poi ti faccio un'obiezione. Sicuramente alcune cose non sono possibili finché certe premesse infrastrutturali non le permettono. Se l'Italia non ha una diffusione capillare di banda larga nel 2020, e non ho guardato le ultime statistiche di come è messa, ma tipicamente il fanalino di coda delle statistiche europee, allora questo tipo di messaggio che io cerco di dare evidentemente casca e non può essere accolto da chi ci ascolta. Però io credo che, anche se in ritardo, oggi, con alcune importanti eccezioni, il famigerato 1 megabit al secondo, al massimo via cellulare, ci sia veramente un po' dappertutto. E che ci sia la possibilità di attrezzare tutte le persone con smartphone, computer, accesso a banda larga, dopodiché naturalmente sta al management da una parte e alle persone dall'altra di mettersi in gioco, di sperimentare gli strumenti, di essere anche in grado di passare da uno all'altro senza dire: ok, guarda, io ho adottato questo sistema di videoconferenza, Skype o Zoom che sia, adesso basta, non mi dite che devo provarne una terza perché non la voglio. L'atteggiamento snello di una persona che si mette in gioco non è qualcosa che si fa una volta per tutte, deve persistere a sua volta perché ci si possa sempre aggiornare. Sì. A proposito della connettività, è vero che noi siamo molto spesso e anche ultimamente tra gli ultimi posti, devo anche dire che a lato pratico non sono successi disastri. Ho visto allarmi e preoccupazioni più che altro in, se guardiamo all'Europa, in Spagna e in Francia, e devo anche dire che molto spesso si dà la colpa alla rete quando invece poi sono i sistemi aziendali che sono stati pensati e progettati negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, non sono stati evoluti alla tecnologia più moderna e non sono pensati per lavorare in remoto. Poi che il problema della rete ci sia, lo sappiamo, ce lo diciamo da molto tempo. Ti faccio un'obiezione però sulla necessità di vedersi, perché girando per aziende che fanno sviluppo software, che lavorano nel digitale, quindi non hanno la necessità di essere presenti, mi rendo però conto che molto spesso queste persone richiedono la presenza e la possibilità di scambiarsi parole in un unico luogo. Quindi anche dal punto di vista organizzativo non è detto che la soluzione del tutti a casa, non abbiamo la sede, siamo sparsi nel mondo, non sia poi quella vincente. Ci sono naturalmente molte considerazioni da fare. La partenza che io farei è quella di come scegli il team. Quando io ho bisogno di selezionare un nuovo membro da inserire in uno dei miei team in Australia, a Malta o ovunque che sia, ho il privilegio di descrivere quelle che sono le caratteristiche di questa persona e di dettagliare la sfida con cui deve confrontarsi con creatività, passione e desiderio di confrontarsi con gli altri che con lui o lei lo faranno, e non inserisco che deve abitare a New York o a Buenos Aires o a San Francisco o che deve avere la possibilità di trasferirsi, ma posso permettermi di fare questa ricerca con il raggio che include l'intero pianeta. Il secondo aspetto, una volta che questo vantaggio competitivo enorme viene capitalizzato, è che giustamente siamo mammiferi sociali e abbiamo il desiderio di letteralmente poterci annusare. Non ce ne rendiamo conto, ma lo facciamo costantemente quando passiamo uno accanto all'altro e prova a fare caso. Annusiamo la scia, non ci giriamo come i cani, ma assolutamente annusiamo la scia della persona passata, oppure quando ci incontriamo tra amici e ci abbracciamo. Si spera che questa cosa sia possibile di nuovo fra qualche tempo, perché ne abbiamo bisogno. E allora cosa fa, per esempio, Automattic? Organizza, e lo fanno indipendentemente i vari team, dei ritrovi periodici, magari più frequenti della riunione aziendale annua, magari lo fanno trimestralmente, in un luogo diverso dal pianeta, bello che possa essere, per anche avere il piacere di stare in un luogo accogliente, proprio per creare la conoscenza diretta fisica della persona con cui lavori. E nel quotidiano, per finire di rispondere al tuo stimolo, gli strumenti oggi permettono di avere la condivisione della comunicazione, se è quello che il team desidera, che non riguarda una chiamata fissata in una certa ora di tutti i giorni o due volte alla settimana. C'è per esempio una piattaforma popolarissima tra i gamer, quelli che giocano ai videogiochi, si chiama Discord. E se voi andate a vedere il sito di Discord, presi un po' alla sprovvista, Discord si è accorta che oggi viene utilizzata in ambiti diversissimi, non previsti prima. Discord è una piattaforma di chat molto molto flessibile, che ti permette di definire dei canali dedicati, di dare ruoli alle persone, sofisticata molto di più che non quello che può dare un gruppo di WhatsApp, ma è anche in grado di gestire le comunicazioni a voce. E lì che cosa fanno tanti team? Semplicemente tengono aperta una finestra virtuale del gruppo che lavora insieme, dove magari si sente uno che beve un sorso di caffè, l'altro che sbatte le dita sulla tastiera programmando furiosamente, e di volta in volta sorge una domanda che viene posta a voce. Senti, ma quella variabile che tu hai impostato ha questo obiettivo? Com'è che posso gestirlo nella mia funzione? E questo luogo digitale di condivisione costante, eventualmente che potrebbe essere anche aumentato usando uno strumento diverso con la condivisione video, diventa quello che nelle aziende fisiche invece che digitali può essere la macchinetta del caffè attorno al quale ci si riunisce per parlarsi. E quindi sono d'accordissimo con te, la presenza fisica serve, la presenza della comunicazione serve e gli strumenti sono lì per supportare queste esigenze. Ti faccio una domanda sull'automazione e quindi sfociamo nei lavori, nelle attività, nelle aziende che invece richiedono la presenza fisica. Noi in Italia insomma siamo esperti in manifattura e quindi abbiamo la necessità di spostare le persone, mandarle in fabbrica per lavorare. Tu pensi che questi mesi che stiamo vivendo, non sappiamo quanto durerà questa situazione, saranno una ulteriore spinta all'automazione laddove si può automatizzare? Sicuramente la efficienza che i nostri sistemi di produzione e di fornitura hanno raggiunto, rappresentando catene che letteralmente racchiudono tutto il pianeta, hanno saputo ottimizzare in una direzione di efficienza economica. Ed è per quello che le meraviglie incredibili, i miracoli tecnologici che abbiamo in tasca, i nostri smartphone, prodotti progettati in California, prodotti in Cina, spediti in Italia, invece di costare $1,000,000 o $10,000, ne costano 1,000 o 500 a seconda del modello. E abbiamo anche visto, e ci siamo accorti con un po' di sensazione, di timore, se non addirittura di panico, quanto queste catene siano fragili. E quindi sicuramente c'è bisogno di trovare un nuovo equilibrio tra produzione globale, dove la specializzazione porta alla centralizzazione, e una produzione più robusta e resiliente che attraverso la decentralizzazione deve portare ad una duplicazione necessaria di funzioni. Se vogliamo mantenere costi bassi, questo deve necessariamente avvenire attraverso l'automazione, perché per fortuna noi come esseri umani siamo costosi e vogliamo esserlo. Noi non vogliamo essere svalorizzati, sviliti, equiparati ad una macchina. Gli operai o quei sindacati che si lamentano di quanto sia meccanico il lavoro nei magazzini Amazon, perché il computer indossabile ti dice di minuto in minuto che cosa fare e misura la tua performance e ti dice se stai distraendoti o rilassandoti o se semplicemente non ce la stai più facendo, hanno ragione nel mirare a qualcosa di diverso e devono prepararsi a fare qualcosa di diverso, perché la ragione per cui Amazon ha così tante persone nei propri magazzini è perché gli mancava un ultimo elemento, che è la destrezza delle mani e delle dita umane. E recentemente Amazon ha investito in una società che vede nella direzione di eliminare questo che per loro è un collo di bottiglia. Allora, i sindacati e i lavoratori dovranno vedere questo, e sarà una grande sfida, come positivo, perché quel lavoro, prezioso che fosse, è un lavoro effettivamente più adatto ai robot. È un lavoro troppo meccanico e quindi le persone che oggi lavorano nei magazzini Amazon dovranno riqualificarsi per fare qualcosa di più umano, di più esaltante, di più adatto a loro, che non li riduce a dei robot meno affidabili che non i robot meccanici. E questo processo naturalmente l'abbiamo visto in tantissimi settori, e negli ultimi 200 anni di industrializzazione prima e appunto adesso di automazione. Semplicemente i nostri sogni di robot erano un po' in anticipo sui tempi, ma adesso ci stiamo arrivando e la produzione automatica è una necessità in un mondo dove non vogliamo essere esposti alla inflessibilità della produzione, che è globalizzata sì, ma troppo poco resiliente. Sì. Un'ultima considerazione su questa evoluzione. Allora, non sappiamo quanti anni ci dividono da un mondo molto più automatizzato rispetto a quello di oggi, perché ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, abbiamo anche intervistato persone che producono robot e loro stessi ammettono i sogni e i progetti che avevamo 20-30 anni fa si sono scontrati con delle difficoltà e hanno rallentato il processo, tant'è che oggi appunto in moltissimi settori non c'è questa automazione auspicata, però arriverà. E io sono tra quelli che pensano che questo creerà milioni di disoccupati. Io non penso che, forse in una prima fase bisognerà avere personale specializzato che lavori con i robot, ma poi ad un certo punto la curva prenderà un avvio tale per cui ci saranno milioni di disoccupati. Tu cosa ne pensi? Capisco che questo è un discorso molto complesso e nessuno sa come andrà a finire, però questa è la mia idea. La tua trasmissione giustamente è tecnologica, però la tecnologia ha implicazioni economiche e sociali importanti, quindi è giusto parlarne. Io vedo una trasformazione di fase dove smettiamo di fidarci della falsa verità dell'equazione che dice che tu hai un valore per la società in proporzione all'output economico che hai prodotto. In base a questo, le persone che si occupano dei bambini a casa o i nonni e le nonne che trasmettono la cultura e la memoria di un paese e tante altre categorie di persone sarebbero senza valore. E l'assurdità di questa affermazione ti fa capire che è la premessa che è sbagliata. E infatti io vorrei che smettessimo di usare l'etichetta peggiorativa di disoccupato verso le persone che sono nella posizione di ricercare un percorso di propositi, di significati, di mete, di ambizioni, al di fuori di quelle che erano le gabbie in cui si erano trovate. Quanti bambini nel asilo, se gli chiedi, ti risponderanno che vogliono fare i magazzinieri per tutta la vita? È un lavoro dignitosissimo, però se c'è un'alternativa è meglio stimolare le persone a cercare quell'alternativa. ed è una delle opportunità che la pandemia ci sta dando, perché tanti dogmi macroeconomici stanno venendo a meno. Quando Trump inventa dal nulla 2.000 miliardi di dollari, che tra l'altro bastano circa per una settimana per salvare dal disastro le piccole aziende americane o le persone che spendono minimo 6-10 mila dollari al mese per sopravvivere in una città come New York. Però comunque il principio che si stabilisce del fatto che non si lascia andare a catafascio l'economia da una parte e le persone dall'altra è un principio radicalmente nuovo che per fortuna abbiamo imparato, perché per esempio nel 29 la mancanza di intervento delle autorità o la mancanza delle autorità stesse, perché semplicemente non esistevano ancora, non avevano la capacità di intervenire, ha creato un disastro che poi è durato decenni. Oggi il potenziale disastro che abbiamo di fronte è ancora maggiore e quindi dobbiamo avere il coraggio di spazzare via dogmi che sono l'eredità di un secolo passato, di un millennio passato, per abbracciare nuove ambizioni con una leadership di pensiero di tipo economico e magari anche politico che scarseggia e che deve invece arricchirsi anche di una sperimentazione che oggi avviene tragicamente di paese in paese. E uno dei drammi è che i fenomeni che abbiamo di fronte sono talmente alieni che la mentalità, l'adattabilità di cui c'è bisogno per intervenire, per esempio, per tempo a implementare le misure restrittive o a trovare la tracciabilità rispettosa della privacy di cui avremmo bisogno, è troppo lenta, non è adeguata. Non stiamo più nemmeno parlando di fenomeni meramente esponenziali, parliamo di fenomeni la cui accelerazione è crescente e va oltre ai limiti dell'adattabilità delle nostre infrastrutture esistenti, che quindi si spezzano e fanno spazio per nuove infrastrutture che saranno in grado di raccogliere la sfida con successo. David, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie Enrico. E così terminiamo la nostra versione super podcast. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Grazie anche a tutti coloro che ci scrivono ogni settimana attraverso i nostri canali. Come sapete io preferisco sempre la email, comunque potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Dobbiamo rimanere ancora a casa, in alcuni fortunati, io dico fortunati perché ritengo che sia una fortuna questa, in alcuni fortunati dobbiamo venire in radio perché molte produzioni vengono fatte nei nostri studi con i nostri tecnici. Grazie ancora a tutti, ci risentiamo la prossima settimana.